Si segnala ai responsabili della sicurezza che il passeggero Gianluca Nicoletti viaggia da settimane in ogni treno possibile. Quando arriva a destinazione, sale nuovamente su un altro convoglio e riparte, apparentemente senza meta. Non sembra pericoloso, ma durante il viaggio cambia spesso scompartimento, intrattiene strane conversazioni con altri passeggeri, a volte legge, spesso telefona. Riceve messaggi al suo computer e sembra che il tempo non abbia per lui valore. Alcuni informatori riferiscono che alla fine del suo viaggio scombinato, ad aspettarlo, ci sia una donna. Quale rapporto lo leghi a tale donna, dalle nostre fonti, non è stato specificato. In ogni caso continuate a seguirlo, mentre il treno va. Il treno va. Perché c'è sempre una donna che aspetta dove terminano i binari. Un programma di Gianluca Nicoletti e Fabrizio Intonti. Certo è che è singolare vedere in treno una bella donna vestita da principessa, o perlomeno con un abito che normalmente le persone amano pensare, immaginare, indossato durante una bella festa, con l'orchestra che suona, con le persone che ballano. Invece lei lo usa per andare in treno. Faccio presto a capire perché. Perché quegli abiti lei li fa, li costruisce, li immagina, li inventa. Ma soprattutto la sua specializzazione è inventarsi abiti per le donne che si devono sposare. Sembra singolare, sembra di altri tempi, eppure è così. È la fabbricatrice dei sogni delle spose. La cosa più lontana nel tempo che ti ricordi? Quando ero piccola, che avevo una prozia che era sarta e mia mamma mi portava da questa zia, che mi faceva i vestiti, però questi vestiti erano vestiti da mettere solo alla domenica e mia madre me li faceva mettere per andare a messa e poi me li toglieva, perché erano vestiti da tenere solo per quel giorno. Beh, il vestito del giorno domenica. Di festa, così funzionava. Ecco. Tu quanti anni avevi? Allora avevo 6-7 anni, quindi il fatto dei vestiti e per me è sempre stata una cosa come l'abito importante, no? Quindi il sogno. E ma erano belli, particolarmente belli? Io me li ricordo ancora adesso, mi ricordo l'abito con le roselline, cioè mi ricordo i colori, questi abiti che non erano, insomma, erano sempre, perché io arrivo da una famiglia molto modesta, quindi però per me da lì è cominciato il sogno degli abiti, gli abiti visti come è una cosa preziosa, e quindi fantasticavo sui tessuti, su come potevano essere gli abiti, e quindi già da piccola disegnavo questi abiti. Quindi il tuo modello era la tua zia, praticamente quella che ti ha dato l'ispirazione per quello che poi hai fatto nella vita. Sì, ho visto lì, ho visto che si potevano con i tessuti potevi creare. E poi ho sempre avuto manualità, quindi disegnavo e con la fantasia creavo questi abiti, questi disegni. Poi, come tante bambine, facevo i vestiti alle bambole e mi ricordo ancora che andavo a giocare con una mia amica e amichetta allora, e sua madre mi diceva: quando sarai grande verrò a farmi gli abiti da te. E poi questa signora io l'ho vestita. Quindi è una cosa che ho portato. Quindi hai proprio imparato il mestiere dalla zia, non è che semplicemente la guardavi, ti ha insegnato proprio a cucire? No, la guardavo, no, io poi vabbè ho fatto nelle scuole, quindi ho imparato proprio bene il mestiere, facendo anche pratica. Ma tu erano contenti o si aspettavano qualcos'altro per te? No, loro mi hanno sempre lasciato libera di esprimermi, di fare quello che desideravo. E comunque poi da lì sono diventata grande e il mio sogno era sempre fare gli abiti da sposa, quindi sono riuscita a vincere un concorso in una grande azienda che negli anni 80 era era un'azienda molto, molto importante, e da lì sono partita. Ho fatto diversi anni che ero proprio stilista, ma sono partita facendo anche mezza giornata era in laboratorio, no? Non è che solo disegnavo, la mattina andavo con le altre sarte a imparare a cucire proprio gli abiti da sposa, e al pomeriggio disegnavo. E ho imparato proprio a disegnare. Ma abitavi in una città grande o stavi in un piccolo centro? Allora, io ho iniziato, allora, io sono di Verona, e quindi ho iniziato là, e poi mi sono trasferita a Castiglione delle Stiviere per lavorare per questa azienda. Quindi ho iniziato lì, ho imparato proprio il lavoro di stilista per l'industria, perché comunque loro facevano abiti non solo per l'Italia ma anche per l'estero, quindi era una grande distribuzione, e io dovevo disegnare le collezioni pensando anche alla vendita, perché comunque c'erano tantissimi dipendenti, quindi quello che era l'obiettivo della collezione era fare sia degli abiti di punta, abiti nuovi come linee così, ma anche abiti commerciali. Quindi era molto importante fare la ricerca di mercato, quindi andavo spesso, giravo in tutta Italia anche per sentire un po' i negozi. In fondo hai coltivato una passione che avevi da bambina, hai studiato per fare quello, sei riuscita a farlo come lavoro, ma le tue amiche, le tue coetanee facevano scelte diverse o tu hai sempre vissuto nell'ambiente della sartoria, per capire, quindi eravate tutte sarte, stiliste, facciate lo stesso lavoro? No, le mie amiche hanno seguito strade diverse e per me il mondo era solo quello, cioè io non vedevo altro. E, tanto che ho conosciuto anche quello che è stato mio marito, lavorando, ero in trasferta a Milano, perché poi seguivo anche i servizi fotografici. Era sarto anche lui? No, lui si occupava di fotografia, però io per questa azienda andavo a controllare che il servizio fotografico fosse fatto perfettamente, perché allora, ti parlo degli anni comunque 80, fine anni 80, non c'era ancora il Photoshop di adesso, quindi il fotografo doveva scattare la foto con l'abito perfetto, quindi che non avesse pieghine, e io dovevo stare lì a controllare che la modella indossasse bene l'abito e che lo strascico fosse messo in modo perfetto. E quindi questo era il mio lavoro, seguire proprio un po' tutto dal disegno a quello che poi era la parte anche produttiva dell'abito, no? Dell'immagine. Ecco, ma una persona che ha questo tipo di mestiere, questa specializzazione, questa passione, poi diventa preda di tutte le sue conoscenti, che ogni volta che devono fare qualcosa, una festa, una cerimonia, qualcosa, vengono da te o a farsi aggiustare gli abiti o a farseli fare. Di solito chi fa l'avvocato, poi c'è sempre l'amico, dice: senti, mi dai un parere, mi scrivi una lettera. Chi fa il commercialista, mi guardi un attimo questo conto. Chi fa il medico, c'ho un po' di tosse, mi visiti. Ecco, chi fa la stilista, come accade lo stesso meccanismo? Sì, diciamo che le mie amiche le ho vestite tutte, però quando si sono sposate, perché facendo questo genere io faccio anche abiti, non dico normali, ma i miei sono abiti più d'alta moda, quindi l'abito elegante che non si mette tutti i giorni. Quindi, come quelli che faceva la zia per andare a messa, secondo i tempi cambiati, sono gli abiti da grande occasione. Mi è rimasta quella cosa delle grandi occasioni, forse per quello mi sono specializzata nella sposa e negli abiti da sera, gli abiti un po' particolari. E poi ecco, butto il fatto che li so fare, ne ho approfittato nella mia vita anche per indossarmeli, no? Quindi avrei un guardaroba sterminato, penso. Sì, diciamo che ogni abito che ho fatto per me l'ho indossato una volta sola, non dico come i reali, però per me l'abito poi mi lega a un ricordo, no? Quindi ma qualcuno te ne sarai tenuta per te, quelli che ti piacevano, no? Qualcuno sì, qualcuno non riesco a staccarmi perché comunque è un ricordo di quel momento, no? Words like violence break the silence, come and crashing in into my little world, painful to me breaks right through me. Can't you understand? Oh, my little girl, all I ever wanted, all I ever needed is here in my arms. Words are very unnecessary, they can only do harm. Informiamo i signori viaggiatori che il treno ripartirà tra poco. Vi hanno detto che non si sarebbe ripartiti, che sareste rimasti senza calcio e sport chissà per quanti mesi, che era tutto finito, chiuso, cancellato. E invece no. Inizia una lunga e calda estate di sport anche su Radio 24. Domenica 14 giugno torna in diretta Tutti Convocati Weekend, il programma che vi racconta cosa sta succedendo, ascolta la vostra opinione e vi farà vivere in prima persona la volata per Scudetto, Champions League, Mondiale di Formula 1 e tutti i grandi eventi che riprendono. Un'estate senza limiti. Giovanni Capuano, Carlo Genta e Pierluigi Pardo vi aspettano tutte le domeniche rigorosamente in diretta dalle 17 alle 19 su Radio 24. Il treno va. I viaggiatori in ascolto, interessati a fare una chiacchierata sul nostro treno o a sottoporre una vicenda personale, sono pregati di scrivere all'indirizzo mail iltrenova@radio24.it. Penso per abiti di un certo livello, io non me ne intendo, non cambia manco tanto la moda, c'è un bell'abito fatto bene da sera. No, dura nel tempo, cioè gli abiti sartoriali non hanno, si capisce che non hanno età, perché non è solo la linea, vedi comunque il tessuto che è pregiato, quindi è sempre bello. Certo, a distanza di 30 anni un abito si può, cioè il tessuto può anche un po', soprattutto se sono tessuti bianchi, può anche, e poi se sono di seta diventa un po' più giallo, no? Perché il tessuto naturale un po'. Mamma mia, mi fa in mente quelle signore anziane che hanno ancora l'abito da sposa chiuso dentro un baule, lo tirano fuori. Mia nonna mi sembra ci si è fatta anche seppellire, una cosa, una tristezza. Oh mamma. Sì, queste cose qua, capito? Cioè, mia nonna, mi ricordo, c'era sempre quest'abito bianco, tenere da parte per quando moriva, poi mi sa gliel'hanno messo davvero. Che metteva un'impressione, una tristezza, perché un po' si ingialliva, perché era una tunica bianca. Bene. Metteva una tristezza a pensare. Però guarda, l'ho fatto anche una volta. Dunque, io due volte nella vita, da adulto, mi sono fatto fare degli abiti di sartoria. Due volte, c'era un'amica che faccia abiti, alla fine dai fammi lavorare, me l'ha fatto prima uno e poi me l'ha fatto la versione estiva, ma l'ho messi pochissime volte, poi l'ho fatti uguali, due abiti neri, uno di cotone e uno un tessuto un po' più pesante, come li metterò quando muoio, e l'ho fatti di due pesantezze, perché se muoio d'estate metto quello leggero. No, io non penso a quello. No, ma mi viene da ridere, perché mi ricordavo, ecco adesso l'ho ricostruita adesso, io, questo ricordo, mi ricordavo, no, di mia nonna, quindi certo. No, io le cose particolari me le faccio per, non so, per il compleanno, perché da qualche anno ho deciso di comunque farmi, di fare una festa di compleanno. Col vestito nuovo? Sì, perché non ho festeggiato per tanti anni, perché vabbè, ho avuto un marito che, un ex marito che si dimenticava dei miei compleanni. Vabbè, tutti i mariti si dimenticano, dai, dopo un po' di anni che uno è sposato, sì, pretendi anche il mal. Quindi dal momento che sono rimasta sola, diciamo così, ho deciso. Tu glielo dicevi la sera stessa, praticamente, oggi era il mio compleanno. Il giorno dopo ti sei dimenticato come sempre. Non basta dirlo la mattina e magari ti faccio ancora un tempo a fare un regalo. No. Dovete sempre spremere questi piccoli limiti maschili per farci sentire in colpa. Ma magari, però ecco, comunque dal momento che poi sono separata ho deciso di fare la festa di compleanno. Infatti sono 5 anni che io faccio con le mie amiche, solo donne, e quindi perché sono single, Vabbè, ragione più, sei single, quindi potete chiamare anche qualche uomo, così magari. Vabbè. No, ti riempio la giornata. Vabbè, ho un amico che però, vabbè, questo amico è non è interessato alle donne. Non è interessato alle donne. Beh, sennò che amico sarebbe, certo. Sennò non è un amico. Però lui sta bene, insomma, siamo molto amici, sta bene. Quindi è il tuo accompagnatore. Ecco, sì, sì, quindi. Senti, raccontami una cosa. Ci sono oggi molti filoni di programmi televisivi legati a ritualità della vita comune. Uno di questi, ce ne sono due o tre di programmi, mi sembra, sui canali digitali Sky. Che c'è tutto il rituale della prova dell'abito da sposa con la suocera, con la madre. Ecco, non so se l'hai mai visto, ma corrisponde alla realtà, tutta questa famiglia di femmine attorno alla scelta dell'abito da sposa. È ancora così? Allora, diciamo che questi programmi hanno un po' rovinato quello che è la scelta vera, intima, che dovrebbe essere la scelta dell'abito tra mamma e figlia. Solo la mamma ci va di solito. Sì. Di solito dovrebbe essere così, la mamma tutto il più si può portare un'amica. L'amica del cuore. Però il fatto di rendere spettacolare quel momento confonde molto l'idea della sposa. E adesso perché l'hanno condizionato, adesso vengono da te sia la suocera che la madre. No, io ho visto delle scene molto, molto brutte di spose che magari indossavano l'abito, che si capiva che era quello l'abito, e poi chiedono il parere a queste 3-4 amiche e tutte hanno un parere diverso, quindi alla fine la sposa si trova molto condizionata a scegliere un abito magari più di gusto dell'amica. A un certo punto uno trova l'incastro giusto che per lei. Allora, la scelta dell'abito si fa in base all'emozione che una ragazza mentre prova l'abito. Sì, anche in base al giro vita, al giro fianchi, cioè ci sono anche altre circostanze. No, è un momento che lei si vede allo specchio e capisce che quello è il suo abito. È proprio dato dall'emozione. Non è solamente, allora certo le misure poi sì, non so, si stringe l'abito oppure si fa completamente no, ma lo devi anche aggiustare per farla sembrare più bella del possibile, anche se non serve, non tutte le persone possono avere un fisico fantasticamente. Sì, sono belle, le spose sono tutte bellissime. Sì, vabbè, questo sì, questo. Ma è vero, non è che perché sono. Sì, vabbè, non parli con una persona che di queste cose gli vengono i brividi solo a pensarle, quindi non sono un giudice sereno. Cioè, vedo certe. Ma io ti garantisco che le mie spose sono tutte bellissime. Vabbè, perché sono contente, perché vengono. Poi vabbè, cerco, certo, loro sono contente. E poi è il mio lavoro valorizzarle, no? Quindi uno può avere anche un problema di vita o di fianchi, quindi bisogna mettere in risalto quello che è la loro fisicità e renderla al meglio. Se uno ha un bel seno, magari fare una bella scollatura, sempre nel limite della decenza, ecco. Beh, si vede un po' di tutto, diciamo la verità. Poi di solito anche quelle un po' più cicciottelle, magari un po' di vita ce l'hanno, un po' di. Il problema va magari bisogna nascondere i fianchi e alla fine si fa un abito, cioè l'aggiusti, dai, diciamo bene, che sembra il miglior possibile. No, non è che l'aggiusto, lo faccio proprio giusto e glielo fai che sembrino sempre bellissimo. Certo, diciamo che. Ma ancora c'è questa cosa che lo sposo non può vederlo, lo vede soltanto il giorno del matrimonio, o è una cosa superata? È un po' superata. Qualche sposo c'è, io consiglio sempre, magari non so, l'ultima prova, di non portarlo, perché secondo me mantenere un po' quella che è la tradizione è anche una cosa bella, no? Diciamo che è una tradizione faticosa quella della sposa in bianco, cioè piace tanto, probabilmente chi si sposa con tutti i crismi della tradizione, però certo sembra una cosa così superata, quest'abito che deve essere simbolo della purezza della sposa, cioè oggi la sposa quando ma si sposa non è più così, la vista un po' di vita si spera per lei e per chi sta con lei, però no? è comunque un sogno che ogni donna vuole realizzare. Poi il matrimonio è un'altra cosa. Beh, è la tua fortuna che ancora esista questa cosa del sogno, perché una volta che le donne si svegliano e capiscono che non è proprio indispensabile vestirsi da bomboniere per trovarsi. Allora, non è bomboniere. Vabbè, lo so, ma tu che discorso? Tu parlo di corda a casa l'impiccato, è il tuo lavoro. Certo. Vabbè. Se non ci fosse, se fosse questo sogno, non avresti modo di esistere. Allora, tu devi pensare che ogni ragazza, fin da bambina, pensa al giorno del matrimonio come il giorno che sarà una principessa. quindi da piccoline ma hanno tutte, già il secondo concetto te, sì. Della so, sì, guarda, io vi, ho vestito anche magari ragazze che erano molto rigide, molto magari, non so, delle avvocatesse che erano un po' rigide. Penso che quel giorno si gioca con l'idea che sei una principessa. Poi magari mi scrivono dicendomi, ah, mi hai fatto sentire una principessa, mi hai fatto sentire... Cioè, quindi legano all'abito l'emozione del matrimonio. Si sentono Cenerentola, tutte le principesse, diciamo, delle favole quando erano piccole. Perché comunque è un abito ampio che non si porta sempre. Ma poi che ci fanno questo abitone da sposa che vai a vivere in una casa di 40 metri quadri, ti occupa metà armadio? Vabbè, io consiglio di metterlo in quei sacchi sottovuoto, no? Quelli che aspiri. Non si tira più fuori? Cioè, una botta via l'abito da sposa? Diciamo che io, tanti mi dicono, ah, peccato, non si può più mettere. Allora dico, createvi l'occasione, no? Magari... Ma si vede un abito bianco, tu esci una sera con l'abito bianco, dice sì, hai riciclato l'abito da sposa. No, magari non so, fai la sorpresa a tuo marito e ti fai una cena intima a casa, te lo metti. Ah, per fare un gioco erotico. Ma potrebbe anche essere, ecco, io non ho. Sì, ma lo puoi fare una volta, ma lo puoi fare una volta, la terza volta che presenti con l'abito da sposa, ti dice ma leva, te lo fai ridere, dai. Oppure ecco, tante adesso c'è l'ul. Non so, vanno a fare il viaggio di nozze e se lo portano magari in queste isole, adesso non so se c'entrano ancora questa storia del coronavirus, però tante nel viaggio di nozze si portavano l'abito da sposa per fare le foto magari al mare. One, two, three, you're with me and by four you're at the door. Should I believe what you say? We act like thieves every single day. Stop growling, hide your clothes. We look like animals. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Words are blades falling from cascades, and this friendly dance maintaining our stance. Boy, we're not an exception. All that we need is a little solution. Stop rolling, hide your clothes. We look like. First comes the cold and then the fire. Why is it so hard to be together? Informiamo i signori viaggiatori che il treno ripartirà tra poco. Il treno va. Si ricorda ai signori passeggeri di non lasciare incustoditi i propri bagagli durante il viaggio. L'abito da sposa, sposa se lo mette la mattina, va in chiesa, si sposa o in comune, dove vuole lei. Ma quando va a mangiare se lo toglie o si toglie qualcosa e lascia sotto qualcos'altro? Come funziona? No. Se ne smonta solito... un pezzo? No, l'abito rimane... Allora, ci sono degli abiti che nascono già magari con, non so, tubino, sopragonna, che uno lo smonta. Ah, due stadi, pronto per il pranzo. Però quello è un altro genere di abito, non è l'abito tradizionale, magari nasce già trasformabile, no? Normalmente quello che tolgono per mangiare è il velo, se l'abito completo del velo, che è un abito più tradizionale, e poi ecco si cambiano le scarpe, quello si prendono delle scarpe. Ma dopo si inciampano nell'abito della sposa, che avranno scarpe di mezzo metro per sembrare più slanciate. Sì, e poi dopo mettono le scarpe basse e logicamente l'abito diventa più lungo. Ah, struscia per terra. Però alla fine hanno già fatto le foto, anche se sono più comode non interessa più niente, poi si divertono, non pensano più. Ma poi ballano, c'è tutto il fatto che si ballano. Sì. E poi quando... Di solito la notte di no... no notte in nozze oggi non è più una cosa che non apre più nessun nuovo periodo, chiaramente. No. Però comunque la fanno allo stesso albergo dove si prende, che stanno a partire dopo essersi strippati, mangiato e bevuto. Quindi lo smontaggio dell'abito da sposa sta allo sposo, poi. Sì, sì. E poi tocca quindi tutti i bottoncini, ma so che il problema più grande non è togliere l'abito, quanto smontare le acconciature che fanno i parrucchieri. Adesso dico questa cosa. L'extension, lo so, me l'immagino. Cioè. Ma mettono tante di quelle mollettine che sono quelle, è quello il problema più grande. Che ah, quindi è rimettere i capelli in condizione umana, questo. Sì. Va bene. Ma una volta fatto tutto, te li ridanno da rimettere a posto prima di, diciamo, di seppellirli? No, niente, li mandi in tintoria. Non li vedo più, vi mandano le foto, mi scrivono dei bellissimi messaggi, fanno delle belle recensioni. Sì, però adesso abbiamo detto solo la parte, diciamo, la parte rosa e carezzevole. Percentuale altissima. Il mio lavoro è così. Sì, però percentuale altissima nei matrimoni finiscono, si sa, non è che. In quel caso l'abito che fine fa? Gli danno fuoco in piazza o se lo rimettono per il secondo matrimonio? Cosa fanno? No, perché il nuovo compagno non lo verrà mai vedere in giro per casa, lo brucia nell'acido, no? No, io ho avuto solamente una sposa che ha avuto il coraggio di recuperare il suo abito e di modificarlo. Tra l'altra cosa, un abito che gli ho fatto io 20 anni prima. Si è risposata. Si è risposata con un abito fatto del tessuto del primo. Vabbè, una pidocchieria terribile. Ma è il secondo marito che ha detto? Non lo sapeva. Era d'accordo. Ma è una cosa veramente. Ma è masochismo puro, però, scusami, no? Sì, no, ma capita anche quello. Ma cioè, per risparmiare. Tanti anni. E ti rimetti l'abito, diciamo. Tanto, che ti ha smontato il primo marito e te lo rimetti col secondo marito. Era di un pizzo molto pregiato e a lei dispiaceva buttarlo via. Da un abito tradizionale, io gli ho fatto un abito che era matrimonio civile, perché era il secondo, gli ho fatto un abito molto, anche molto sexy, perché era comunque corto, tutto un po' scollato. Vabbè, ha usato il pizzo. Era cambiato. Usato il pizzo, era un'altra donna a quel punto. Sì. Senti, non ci sono quelli che vogliono fare gli eccentrici, che invece che l'abito bianco lo vogliono colorato? Colorato, sì. Tipo il più strano? Tipo il più strano che ho fatto, vabbè, a parte il solito, quello che va di più è il rosso. Chi vuole usare, in questi anni ho fatto tanti abiti rossi. Tutto rosso? Sì, bordeaux, tutto rosso, tutto bordeaux, pure bianco e rosso. E perché va il rosso così? Il rosso è sempre un colore, perché è il contrario del bianco, per colpisce molto. La sposa è rosso. La sposa è rosso, è sempre molto d'effetto. Sì, ma la cosa vecchia, ho sentito dire, non è una cosa nuova l'abito è rosso, ha anche un senso ideologico di uscita dagli schemi tradizionali. Certo. Sì, mi sposo, ma non mi sposo secondo la sacra tradizione. Di solito si sposano in comune con l'abito rosso, non credo in chiesa con l'abito rosso. No, anche in chiesa. Sì. In chiesa. Sì. Vabbè, è una sfida, è un attacco alla modestia. In chiesa non è che c'è il vincolo all'abito bianco, sì. No. In chiesa la cosa più importante è coprire le spalle e non avere gli abiti. Scusa, quegli abiti scollati che fai? Gli dai un coprispalle quando vanno in chiesa? Coprispalle, sì. E poi fuori si rinnudano. E poi dopo escono e... Quindi scollata non si può, lo scollamento non si può vedere. No, Non troppo brutto. Perlomeno. Oppure velate, scollature velate. Sì, anche perché dovresti essere sexy quando ti sposi, anzi, non so, è una cosa un po' singolare, per fare schiattare di invidia gli altri invitati, non lo so. Ma ci sono degli abiti, magari con quelli non proprio tradizionali, con le linee a sirena, che fasciano bene il corpo e ci sono... Se li può mettere soltanto chi c'ha il corpo la sirena, certo. Sembra un capitone, cambia completamente. Hai l'età media delle persone che si sposano a te quanto hanno? Così mi faccio anche un'idea della gente che si sposa ancora. Sono intorno dai 30 ai 35. Fino a qualche anno fa era anche dai 35 ai 40. Dai 40 anni non si mettono l'abito bianco, dai, fa ridere. No? No, si sposano ancora con l'abito bianco. Bianco, panna. Perché vergine ma non troppo, si diceva una volta quando era beige. Solamente perché l'abito da sposa ormai è considerato bianco, tradizione, no? Quindi vanno tranquillamente. Però c'è un ritorno alle ragazze più giovani, dai 27 ai 32, negli ultimi anni ne ho viste tante. Beh, se uno si sposa, alla fine si sposa come Dio comanda, tanto vale. Come tante si sposano che hanno già i bambini, quindi magari qualche volta faccio anche abitini da... Sempre in bianco, con tutto l'abito così. Vabbè, sì. Diventa un gioco a quel punto, un divertimento, no? Sì. Fa una grande sfilata. E a parte tutto, vedi, a parte adesso i momenti particolari, vedi un ritorno allo sposarsi con l'abito da sposo tradizionale, o è una cosa che secondo te, ti auguro più tardi possibile, andrà scomparendo e si cambierà? Rimane una tradizione, quindi rimarrà l'abito da sposa, tanto che con questo coronavirus, cioè, le spose hanno scelto di rimandare anche di un anno il matrimonio pur di sposarsi in modo tradizionale, con tutti gli invitati, facendo la grande festa, avendo proprio tutto. Quindi il matrimonio, perché se fosse solamente per l'unione di due persone, andavano comunque o in chiesa da soli. E basta un ruvido saio anche per sposarsi da soli, ecco. Che problema c'è? Però vedi, quindi la tradizione secondo me non ha... E tu come te l'hai rifatto l'abito da sposa? Adesso parliamo del personale. Come te l'hai rifatto? Allora, del personale... L'avevi scelto da sola, immagino. Sì, allora io mi sono sposata prima civilmente... ho scelto un abito rosso, vedi? Ah, vedi, l'hai fatto rosso. Ma il rosso è il mio colore preferito, quindi se io devo... Beh, non era coi veli o gli stracci che erano... No, io ho fatto matrimonio civile, quindi avevo questo abito. Beh, io tanti matrimoni civili li vedo con la sposa bianca. In comune a Roma spesso viene la sposa sempre con tutto il velo. Quando io mi sono sposata, mi sono sposata dopo neanche 3 mesi che conoscevo mio marito. Un colpo di fulmine. Sì, il classico colpo di fulmine, quindi... Tempo di preparare le carte, trovare un appartamento subito e... Vabbè, l'abito da sposa era l'ultimo dei problemi per te, ce l'avevi a bizzeff. Mi volevo colpire, quindi questo abito rosso. Poi dopo 2 anni mi sono sposata in chiesa, sempre con lui, quindi... L'hai fatto bianco. Bianco, allora lì ho voluto fare anch'io la principessa, quindi ho messo le altre, però... Ma le nozze d'argento ci sei arrivata? Sì, sono arrivata alle nozze. E l'hai fatto verde? L'hai fatto verde. Però in realtà non abbiamo fatto nessuna festa. Ho voluto... Cioè, festa, abbiamo fatto giusto una cena. Quant'è le nozze d'argento? 20 anni? 25. Sono arrivata fino a 27, quindi sono stata brava nonostante i 3 mesi di fidanzamento. Le nozze d'oro quant'è? 30 anni? No, 50. No, sono 50. Comunque, vabbè, io credevo nel matrimonio, 27 anni sono stata sposata. 27 anni si sarà sposata? 27 anni, beh, sì. Tanto. Adesso sono in cerca di fidanzato, quindi qualcuno mi metto disponibile. Vabbè, scusate, hai anche tempo nel tuo lavoro a cercarti fidanzati? Sì, sì. E come te li cerchi? La vita non è lavoro, non è solo lavoro, quindi... Certo, posso dirti una cosa? Sì. Una che cerca un fidanzato... Si vedono, dice: cosa fai? Faccio gli abiti da sposa. Uno scappa via, però, scusa. Uno pensa subito, non è dice: vabbè, forse non lo so, ma uno pensa subito che cerchi marito, un altro marito, dice: faccio abiti da sposa. Non lo so, no. No, ma magari sono anche interessante come persona. Quindi perché dovrebbero scappare? No, perché abiti da sposa, sai, gli uomini più passa il tempo e più cercano, non si vogliono sposare, hanno paura di sposarsi. Ma no, paura, okay. Probabilmente sai. Non dico che mi voglio risposare, dico fidanzato per condividere la vita. Lo so, perché io la vita di coppia, non, io non sono contro la vita di coppia, quindi tutto qua. Vabbè, sai, tu sei quella che dall'inizio ha tante storie che almeno il momento che vengono da te hanno tutte le speranze che possa continuare. Ma quelle sono le loro storie e io rendo felici queste, nel mio mondo lavorativo rendo felice queste donne, però sono anch'io una donna e quindi... Dici ogni tanto lo ricordi, questo ho fatto. Quindi? No, e quindi anch'io ho il diritto di essere un... Di ma questo, ad questo essere è normale, felice. Questo è normale. Ecco. Ma quanti anni sono che non stai più con tuo marito? Sono 5 anni. il tempo per meditare c'è stato, capito? Eh sì, quindi adesso è il momento. Oh, it seems hard to believe it's still you. Oh, it seems hard to believe it's still you. I'm talking about, yes, wherever I stutter, end up with you. And I know for a fact it's got little to do with the stranger I see. It's just that I miss who I used to be. So I walk away and pretend it's not you that I'm running from. Just when I think that I'm free, I bump into you. And I wish I could change, 'cause it's all been said. I wish I could end this sick little game I play. I signori passeggeri, che il treno effettuerà una breve sosta per le informazioni sul traffico. Restate in ascolto. Il treno va. Si informano i signori passeggeri che è vietato sostare nelle toilette durante le fermate intermedie del treno. Una donna sola attraverso che canali e attraverso quali tipi di filtri si mette a cercare delle persone con intenti seri? Non parliamo del passatempo, che uno lo può trovare ogni momento. Gli intenti seri di ricostruire qualcosa dopo un'avventura matrimoniale che non è stata, che è andata così, fine, succede. In fondo si è stati tanti anni assieme, non è stata una cosa fuggevole. No, ma io sono felice della mia prima parte di vita, adesso sto cercando la seconda parte. E allora, quando si cerca non si trova. Questo è un classico. I primi due o tre anni che ero da sola e ogni tanto andavo su questi social di incontri, ma non ho mai conosciuto nessuno che corrispondesse alle mie esigenze, perché poi dopo anche... Ma che tipo di gente trovavi? No, una tipologia, persone, senza entrare... No, anche persone serie, però ognuno con le proprie abitudini di vita. Io, non so, anche per il lavoro che faccio, non ho questa grande libertà di spostamento. Ma come fai a trovare un uomo decondizionato in un'età che diciamo che supera i 30 anni, ecco, un uomo che ha più di 40 anni, ecco. Infatti per quello sono ancora single, perché Dove lo trovi un uomo che rinuncia alle sue abitudini di vita a un'età, diciamo, in cui entra nella maturità? È difficilissimo, è una pretesa importante, sì. Sai, far cambiare le abitudini di vita a un uomo, no? E poi comunque io cerco ancora l'amore, anche se adesso mi dirai è difficile trovarla a una certa età, però quindi non mi accontento, cioè, beh, sai, alla fine è difficile trovarlo anche a 15 anni, anzi, sì. Diciamo, gli amori più dolorosi sono quelli che ci trapassano da giovani. Nel mio lavoro, ecco, una cosa molto bella che ho visto qualche volta nel mio lavoro è che ci sono delle donne che magari hanno la seconda possibilità, e allora dico, ma magari un giorno anch'io, no? Potrei avere... Non lo so, ma no, è un po', è un po' il problema di tante persone che cercano sempre la seconda possibilità, perché la prima non gli è bastata, evidentemente, vogliono ripassarci un'altra volta. No. Allora, sono persone diverse. Allora, la prima ti può andare male perché magari quella persona poi nel suo percorso di vita ha avuto dei cambiamenti, no? Ecco, ma se tu ti ritrovi con un'altra persona, ti innamori di un'altra persona, non è più l'uomo di prima, quindi perché ti deve andare male? Ma non trovi che noi andiamo sempre a cercarsi le persone fatte più o meno con uno stampino? Uno ricade sempre negli stessi errori, se ci pensa bene. Se fai l'analisi delle persone che hai frequentato, con le quali hai pensato di volerti bene, o hai pensato di passare insieme un pezzo di vita, se le guardi con attenzione e le sovrapponi, hanno tantissimi elementi in comune. Noi andiamo sempre a cercare qualcosa che risponde a un modello, molte volte manco consapevole, che sono sempre la stessa persona. Non ti è mai venuto in mente questo? No. Vabbè, evidentemente. Certo, andare sempre con gli uomini sbagliati non è... Vabbè, io li vedo subito se sono sbagliati, quindi non do neanche la possibilità di... E qual è il segno dell'essere sbagliato? Ecco, diamo un po' l'acume dell'esperta in matrimoni. Allora, capisco se non hanno niente da dire, che non mi colpiscono come parlano, come... magari guardano solamente... Non so, magari mi dicono esco con te, sì, sei una bella donna, le solite cose. Però all'inizio, scusa, i complimenti, e se un uomo mi fa i complimenti più di tanto, non è che non li apprezzo, però la vedo come una cosa negativa. Come standard, dici, tanto li fa tutti. Sì, sì, infatti bisogna essere standard, ma perché magari lo trovo superficiale. Se invece uno mi parla e dei discorsi che fa mi vabbè, ma poveracci, sono uomini che li trovi in questi posti dove già per una donna è diverso, una donna è una scelta, può scegliere. Gli uomini che si affidano, diciamo, ai sistemi telematici per incontrare sono uomini un pochino, ma adesso non voglio dire, ma un pochino sfigatini un pochino sono, perché oggi onestamente è un mondo che è cambiato totalmente soltanto negli ultimi anni. No, non è proprio così, no. Perché guarda che ci sono tante persone anche professionisti che sono l'unica cosa che magari queste sono degli uomini che cercano solo l'avventura, detto proprio così. Vabbè, cioè, è lecito quello. Se lo dice di no, però non lo dicono, fanno finta di fare romantici all'inizio, ecco. Ma io li capisco capisco subito che sono così, quindi non ma questa cosa non si chiarisce prima, non c'è un livello di chiarimento, non lo so, non deve mettere, che ne so, cerco storia stabile, cerco relazione. Tutti dicono che cercano la storia stabile, sono persone serie, poi invece si capisce che non è così. La storia, siamo separati in casa, io e mia moglie, queste cose qua. No, in casa no, quello è tutto finto. Ma... Allora, diceva una persona che si occupa di matrimonio, uno psicologo, che non devi andare cioè se una persona ha già dei problemi e tu non vuoi avere dei problemi, non devi andarne in cerca, no? Sì, però devi a questo punto radiare fuori dal tuo orizzonte il 90% dell'umanità. Sì, chi è che non c'ha problemi? Infatti sono ancora single. Lo so, trovare l'uomo senza problemi, che vuol dividere la vita con te, che non vuole che cambierebbe comunque ogni sua abitudine per farti contenta, andare incontro alle tue. E vedi che in conclusione rimane l'imprinting della nonna che ti faceva i bei vestiti, che un po' assomiglia alle tante fate madrine delle favole di principesse, in realtà. Ma magari sono una principessa anch'io, no? Sì, ma io non voglio buttarmi giù dalla... Le principesse passano tutta la vita a aspettare il principe azzurro. Quelle che non hanno la vocazione della principessa, sì, sono un po' più di bocca buona, si accontentano, diciamo, ma in fondo le persone vanno prese per... Non mi voglio accontentare. Fai bene, però guarda, so quello che il tuo destino è segnato. Adesso ti lascio con una profezia, è segnato. Sì. Il tuo compito è fare gli abiti per la felicità delle altre donne. E tu devi rimanere come una specie di sacerdotessa, capito? E certo. Come tutte le sacerdotesse, ti devono immaginare tutti che stai lì, fai l'abito, dai l'oggetto della felicità alle altre donne, poi viene un'altra donna, e passi sempre a cucire abiti da sposa. E non devi pensare a risposarti, non si può. No, però quegli abiti me li metto anch'io, i miei abiti, quindi una piccola soddisfazione, anche se non ho l'uomo, nel mettere questi abiti. Io ce l'ho senza sposarmi, senza spendere soldi per queste mega feste, e le mie soddisfazioni me le prendo. Vabbè, ma io sono convinto, infatti sono convinto, e ti auguro, scendendo dal treno, di mettermeli io, vedi, ecco, perché con la scusa del mio lavoro io non magari passo il mio lavoro, quindi non sono ridicola se mi metto un abito da sera. Quindi puoi mettere sempre degli abiti bellissimi e certo, non per andare per strada, sì, però sempre nella speranza di trovare la persona giusta, che te lo possa togliere. E con questo, con questo scendo dal treno, ti saluto e ti lascio. Va, ti faccio un grande augurio di continuare a essere te la fata madrina della felicità di tante donne. Ciao, buon viaggio. Ciao, buon viaggio a te, ciao. I don't care who does her hair or what clothes she wears. I don't care if it's YSL. I don't care if it's Chanel. What matters to me is a strong belief. Ricorda che è attivo il servizio di prenotazione via mail all'indirizzo il treno va @radio24.it.